volte vengono mandate dal Ministero da Roma, la commissione a Cagliari le esamina, da quelle cartelle prepara le cartelle per i quiz e per i candidati. Non è così, Anto. Cioè chi non c'è dentro certe cose non le capisce. Vittorio non ne ha mai fatto commissione, era candidato per fare il presidente di esterno, diciamo, Ari, presidente Ari, quindi rappresentante Ari, non presidente, rappresentante Ari, quindi rappresentante per la sezione di Sassari, ma invece non è stato ammesso neanche lui, ed è stato ammesso di nuovo quello di Cagliari. E lì c'è un conflitto tra la sezione Ari di Cagliari e la sezione Ari di Sassari, ma sono discorsi interni tra sezioni. Il fatto che devi comprare, non c'è niente da comprare, le cartelle e i quiz li stabilisce Roma, il Ministero delle Telecomunicazioni da Roma, tanto è vero che io credo che con quest'anno si chiuda la sessione di Cagliari e gli esami vanno fatti a Roma, quindi chi vuole andare a, chi vuole dare gli esami deve andare a Roma a darli, capito? Perché credo che Cagliari chiuda completamente, non le vuole più sapere. Quindi questo è quello che si vocifera all'interno del Consiglio regionale, quindi del direttivo regionale, del Comitato regionale Ari. Perciò dove io sono socio, dove io partecipo, dove io sento, vedo e tocco, quindi non è esattamente come dite voi. Non c'è nessuno che è abilitato a prendere cartelle e mettere lì i quiz, nel modo più assoluto. Le cartelle le ho viste io, arrivano sigillate tramite Corriere Espresso, l'ho fatta la verifica dal Presidente di Commissione del Ministero, dopodiché vanno tolte le cartelle e date ai vari candidati per fare il compito. Sono tutte numerate, sono tutte registrate, c'è anche l'intendenza di finanza, quindi non sono realmente cose che dobbiamo dire. È molto ma molto leale quello che stanno facendo e diciamo che hanno un sistema molto ristretto, quindi o ne sai o non ne sai. Se loro si accorgono che tu ti intendi con quelle 18 domande e risposta che ci sono, non te ne vanno, devi fare almeno 21 su 21, 22 su 22, ma c'è secca, hai capito, lo devi sapere, perché ci sono anche normative di legge, quindi devi conoscere, pertanto non so, comunque, non è passato nessuno, io l'ho saputo stamattina, a metà mattinata, quindi ho provato a chiamare Fabrizio per dirglielo, però c'aveva il telefono spento. Quello che dicevo io comunque è una piccola inesattezza, forse non mi sono espresso bene, nel senso che mi sembra strano che a seguito di domanda da me fatta al presidente di commissione, cioè dove potevo acquistare dei libri per la preparazione, dei quiz, questo mi dice appunto di contattare l'area di Cagliari che loro regalavano un libro, tra l'altro abbastanza costoso, per la preparazione dei quiz. Però ti ripeto, alla fine che cosa porta questo? Se in 3 anni quanti ne sono passati? In 3 sessioni, una ventina credo, no, 15 forse, una quindicina, perché quando io ho accompagnato i primi 4, 2 sono passati e 2 no, e poi la seconda volta sono passati gli altri 4, quindi sono 4 e 2, 6, e forse una quindicina, capito? Non pensare, perché anche Renato, un mio carissimo amico che è radioamatore, lavorava con Lotto, grande tecnico, ha una grande preparazione tecnica professionale in tutto e per tutto, eppure la prima volta hanno bocciato, quindi non è che bisogna vedere. Sì, lo so, ma se ti hanno detto così, io conosco anche l'ingegnere di commissione, perché ho telefonato proprio per Salvatore, perché mi ha detto a piedi per mandare questi documenti. Che poi ingegnere di commissione si reputa lui, ma è il direttore provinciale di via Brenta, quindi ingegnere del Miglio, perciò non è che fa solo il presidente di commissione, fa il presidente di commissione quando c'è la esame, altrimenti al suo ruolo specifico lì in direzione generale. E ci ho parlato proprio per Salvatore, per, insomma, non per incursi perché non ne ha bisogno, ma per sbrigare questa pratica, perché era ferma lì con quell'altro testa di uccello di Pizzarici. Quindi, perciò, Cagliari già una priorità sulla vendita dei libri per studiare, perché l'area di Cagliari è praticamente a livello regionale, dove tutte le sezioni distaccate dipendono dal comitato regionale di Cagliari, quindi loro si danno la priorità, ma non sono nessuno. Perciò non è che lui ti ha detto devi per forza comprare qua, contattare per far sì che loro incassino e tu spendi, mentre noi a Sassari ci quotiamo ogni mese a 5 euro al mese per poter mandare avanti la sezione. Quindi hanno un modo di fare che a me non piace, e se dovessi tornare indietro manco li cagherei in parole povere, capito? Perché non mi interessa niente. Comunque sono stati tutti bocciati, che vadano e ci ritentino, altro non posso dire. Dai, vado a mangiare, nel caso ci sentiamo il padre se coincide, e se no alle prossimine. Comunque, ricordatevi per tutti che non è una passeggiata, nel modo più assoluto. Buona carica, no, una passeggiata è una passeggiata, 400 km solamente ci sono fatti. Non so, in base a quello c'è ragione, una passeggiata da 400 km, ma poi una passeggiata che non ha molto significato se non hai quello che loro chiedono, i requisiti che loro chiedono, se vuotito. Va bene, mi dispiace per Fabrizio perché ci tiene tantissimo, ma l'unica cosa che posso dirle io è di ritentare, di non mollare, perché se una cosa si vuole si deve ottenere. Io sono andato una volta perché la volevo nel modo più assoluto e perché ero costretto a farlo e l'ho ottenuta. Perciò ritengo che anche gli altri debbano puntare i piedi e fare la stessa cosa che ho fatto io. Ci sentiamo, Anto, buon pranzo anche a te, alle prossime. Ciao a tutti quelli che stanno ascoltando. Ciao, ciao, buona carica. Poteva parlare solo con Salvatore in accarezza. Evidentemente. E verrà qua, ha detto che vuole fare una chiacchierata in VHS, non HS. Vabbè, sarà mio ospite appena gli arriva la licenza, così lo battezzo. Ci sentiamo più tardi, ciao. Perché non la caio su VHF, non ho capito. Ah, ho capito, sui. Sì, ok. Ah, perché lui non era di quelle frequenze. No, non è, ma il battesimo avviene in quelle frequenze. VHF e UHF. Il primo che ti collega ti scrive a log e quindi sei il suo figlioccio. Tutto qua. E poi fai le tue esperienze in HF. Cappadino, che cos'è la 145-525? Sì, quella è la diretta di Sassari con tutti i vari punti, V e N, R6, R7, R1, R0, tutti. KK, vabbè dai, buona carica, dopo. Ciao, ciao. Buongiorno, Massimiliano Archimede. Ciao Massimiliano, tutto bene? Testando i tasti sulla tastiera. Fai bene. Fai bene, sai che non sono riuscito, alla fine l'ho portato lì da Pomponio, non sono riuscito a rimettere a posto non era entrato in protezione in quel trasformatore switching, mi ha mollato. Cose che succedono. Stranamente, come lo attaccavo stava, anche se non accendeva, stava scaldando un finale, è possibile che sia in corto, no? È probabile. Guarda, non sono estremamente difficili, a vedere se switcha, se sta oscillando, naturalmente controllare i diodi e il finale, quello di potenza, che non ci sia qualche condensatore andato, insomma sono poche cose che devi stare lì a controllare, naturalmente se poi ti parte il chip che ti fa il PVM, quello è un altro discorso, ma siamo lì, siamo, noi ci vogliamo molto. Hai sentito la notizia, sì, eri in ascolto. Ah, ho sentito la parte finale, ho capito che tutti con le zucchine. È brutto, mi dispiace. Beh, mi dispiace anche a me, sinceramente. E sai, avere altri colleghi che riescano poi a passare l'esame e intraprendere il gioco del allenatore, beh, scusa, è sempre piacere avere nuovi radioamatori, ecco, anche perché non siamo in tanti, mi dispiace veramente tanto, ma si sa che quali argomenti sono stati toccati, quali sono state le domande fatte o roba simile. Ma sicuramente ci sapranno dire qualcosa di meglio adesso come rientrano, perché stavano rientrando, li ho sentiti a mezza mattina, non so se siano già a casa. Ho capito. Ebbè, una brutta cosa. Io quando l'ho fatto ancora con la vecchia, diciamo, vecchia sessione, le classiche tre domande e basta, perché io ho fatto la licenza speciale, perché ancora il periodo c'era la telegrafia se volevi fare licenza ordinaria, e l'ho fatta nel 2001 mi pare, che poi potevo anche non farla perché per il titolo di studio che ho potevo chiedere l'esonero, però l'ho voluta fare a prescindere, era un così, ho detto là ci provo, perché in ogni caso è una materia che dovrei conoscere, non ci dovrebbe essere grosse difficoltà. L'unica cosa che mi ero studiato un po' più a fondo era il codice Q e le normative, poi per la parte, diciamo, tra virgolette elettronica, elettrotecnica, mi ero fatto così un ripasso generale, ma molto molto blando. E il giorno che ero andato ho fatto l'esame e avevo aspettato lì perché gentilmente il mio Debilio mi aveva detto aspetti un attimino che leggo subito l'esito, ho fatto il controllo, sì sì è promosso, mi porti due foto e le marche da bollo così non deve riscendere. Sono andato, ho fatto le foto, marche da bollo, gliele ho portate e a distanza di una settimana c'avevo la patente in casa. Poi ho fatto tutta la prassi, richiesta del nominativo e poi della licenza generale per trasmissione, perché poi c'è una prassi da fare, adesso penso che sia ancora così in ogni caso. Poi dopo due anni è stata abrogata il discorso della telegrafia e tutte le licenze speciali sono passate ordinarie e mi hanno mandato il nuovo nominativo a casa con la revisione della licenza generale. Ripeto, se non ricordo male mi avevo chiesto circuito resistivo, circuito capacitivo e poi qualche cosa sulle norme, che non mi ricordo perché ho le classiche tre domande. Il terzo mi pare che erano delle norme. Eravamo 6, 7, 8 persone, mi ricordo. Alcuni sono stati bocciati, mi pare promossi, se mi ricordo quanti eravamo stati promossi, poca gente comunque anche con la sessione, veramente poca gente, e secondo me sinceramente non era un compito difficile a prescindere, eppure alcuni non sono passati. Vabbè, capita, no, io sono dell'idea che sicuramente molta gente va lì a tentarsela, però questo non è il caso di Roberto perché ho sentito la preparazione che aveva, sapevo che stava studiando, non è la prima volta che stava andando, cioè mentre Fabrizio magari se la stava tentando un po' di più, ma dice che poi sono arrivati a 18 come punteggio e poi sono tornati indietro grazie alle domande sbagliate, capito? Quante domande sono in tutto adesso? Perché sinceramente il nuovo ordinamento non lo conosco, non vendo farne di esame, non mi sono più interessato. Quante domande fanno? Sono 30 più, quindi sono un punto per ogni domanda e un quarto di punto per ogni sbagliata. Ho capito. Quante ne devono fare? Quanti punti di gioco devono fare per passare? 18. Loro erano arrivati 18, poi hanno iniziato a tornare indietro. Ah, peccato. veramente peccato, eh. E sicuramente o qualcosa sulla normativa o qualcosa inerente alla materia tecnica. Sono curioso di sapere un attimino quale, dov'è che hanno inciampato. Sicuramente questo pomeriggio saranno in radio, eh. È che farsi 400 km così in un solo botto in mezza mattinata è bello tosto, se non anche 500. Io quando che ho fatto così, mi ricordo, mi pare che era di lunedì, mi pare. Il problema era di lunedì, avevo chiesto delle ferie, mi sono preso un paio di giorni di ferie. Lunedì mattina ero lì già dalle 8 perché ero sceso presto, ho fatto l'esame, poi tutto il tran tran per farmi le foto e marcare a bollo, firmato, fatto, poi mi ero risalito su, però ero risalito contento perché infatti smaniavo ad avere la patente, infatti fortunatamente mi pare che l'avevo ritirata all'ufficio qua di Sassari, sì, perché mi avevano chiamato e ho detto sì, venga che c'è la sua patente, ero andato a ritirarla, ha firmato e poi da lì ho fatto subito la richiesta del nominativo e lì mi pare che ho aspettato un pochettino. Una volta arrivato il nominativo ho fatto la richiesta della licenza generale, però nel mentre avevo trasmesso a casa di un collega rianatore e poi appena avuto il nominativo, mi ricordo il giorno che ho ricevuto il nominativo stavo già trasmettendo in VHF, contentissimo. Ripeto, c'è da dire anche questo qua che secondo me sono un po' troppo severi, cioè nel senso che potrebbero un attimino allentare la presa, anche perché i programmatori ce ne sono pochi, col discorso di internet e cellulari molti non si avvicinano neanche. Sarebbe anche più consono cercare di invogliare chi vuole diventare programmatore, certo non è che la devono dare a chiunque così leggermente, con leggerezza anzi, giustamente uno deve essere consono alla materia che deve affrontare, però io mi ricordo proprio Roberto mi aveva fatto vedere delle domande che avevo fatto, che avevo chiesto qualche cosa sui laser, sui computer, c'era. Io devo usare la radio, non è detto che devo usare il computer, anche se il computer può essere legato alla radio, ma io devo fare radio, cioè devo sapere che cos'è una radio, mi puoi chiedere che cos'è un mixer, come è formata la radio in generale, un'antenna, la normativa, come si installa un'antenna, che poi io più che altro avrei fatto anche delle prove come ci si comporta in radio, perché non ti prendono la patente ma non sanno parlare in radio, non si sanno comportare, e come fare la teoria della macchina, però non sa guidare la macchina, siamo lì siamo. No, da questo punto di vista assolutamente, ma infatti quello che dicevo io è che un po' ieri sera si parlava del fatto che molti OM si vergognano del loro passato da CB. Io credo che prima di saper andare in moto alla strada devi comunque aver avuto esperienza in bicicletta, cioè devi partire dalla bicicletta. Quindi sì, io una prova di modulazione l'avrei fatta fare, o comunque di trasmissione, di QSO, cosa vuoi dire? No, proprio di QSO, come ci si comporta, perché io mi ricordo, e non ho vergogna a dirlo, che la prima volta che sono andato in HF, una cosa che un consiglio che ho seguito dai colleghi radioamatori più veterani, fare tanto ascolto, quello senza dubbio, perché poi capisci come deve essere svolto il QSO, come si entra. Guarda, un consiglio che mi hanno dato, che io faccio sempre, è quello di accendere la radio e ascoltare almeno per un po' sulla frequenza, sul canale dove vuoi fare QSO, per capire un attimino che dinamica si sta svolgendo e come sono le cose. Come poco fa io ho acceso e ho aspettato quei 5 minuti perché c'era Claudio che stava parlando, c'eri tu che stavi ascoltando, insomma ho analizzato un attimino la dinamica di cosa si stava parlando quanto. Poi successivamente, vabbè, Claudio ha chiuso, ma poi successivamente ho chiesto l'ingresso, perché sennò è inutile, uno accende e comincia a trasmettere. Non sai che cosa sta succedendo, non sai quali sono le dinamiche, non sai quali sono gli interlocutori che stanno parlando, insomma, non va bene, ecco. Ma sono cose che perlomeno in questo momento uno le fa per esperienza, o se è fortunato è sotto consiglio di chi è già, diciamo, vaccinato e veterano su questo sistema. Però a parer mio è una condizione che io metterei all'esame, saper fare un QSO, saper usare mediamente una radio, perché molti c'è anche quel problema, cioè io quando prendo la patente della macchina non faccio sentire la teoria, che mi dicono cosa c'è come fate il motore, i pistoni, i cilindri, pompa della benzina, freni e quant'altro, che sinceramente fino a un certo punto mi potrebbe interessare, se non il funzionamento in generale, però visto che io quando ho preso la patente secoli fa ne ho fatto sulla meccanica, per carità mi piace, non si può, però si sarebbe immaginato, ma uno che ne frega niente, deve imparare a guidare, a saper, tanto quando si guasta la macchina ti metti a ripararla, chiami il meccanico, chiami il carrozzerista, la porta via. E posso capire che saper cambiare una ruota, che neanche le scuole guida te lo fanno fare, te lo devi impararlo tu, vedi, quello è invece la premessa. Sì, per la radio, sapere in generale cos'è la radio, come è formata, ricevitore, trasmettitore, di cos'è il VFO, il VCO, cos'è un filtro noce e così via. Saper trasmettere, come si fa a trasmettere, saper ascoltare, come si faceva con la telegrafia, te vedi come facevano? Tu devi saper trasmettere e ricevere, e così dobbiamo fare con la fonia. Ah, oggi è registrato il break, Daniele. Sì, no, hai perfettamente ragione, adesso mi hai ricordato una cosa, da poco in Viale Sicilia, a proposito del fatto che secondo me le scuole guide, al pari di quello che potrebbe essere una scuola di OM, quantomeno farti insegnare a cambiare una ruota, ho trovato una donna che questa qua teoricamente lo sapeva fare, aveva messo il trick, aveva tirato sulla macchina e dopodiché pretendeva di allentare i bulloni con la macchina già tirata sul click. Morale, si era piegato perché non aveva tirato neanche il freno a mano, quindi il click si era completamente piegato e gli era entrato sotto la macchina, un casino. Alla fine era un casino proprio a risollevare la macchina e cercare di togliere questo click, che con tutto il peso della macchina si era torto e ne aveva attaccato quasi i longheroni da sotto dove si mettono proprio dove andava agganciato il click. Una cosa che dovrebbero fare assolutamente sì le scuole guida è quella prima cosa, insegnare come si cambia una ruota di scorta. E come stavi dicendo tu, sì, io ad esempio avrei fatto fare quantomeno un 3 mesi, un 2 mesi da SWL, perché la maggior parte non, almeno che vanno a fare l'esame, non hanno neanche questo attestato, benché in questo periodo adesso non credo che sia più, non esista più l'attestato, meglio se lo richiedete lo danno, però realmente il radioascolto lo può fare chiunque. Registrato il break, avanti con la buonasera, se non sbaglio era Daniele che c'era prima, avanti Daniele. Calma Daniele, mi hai sentito, mi hai ascoltato, buon proseguo di trabacco, ci sentiamo le prossime, se è in compagnia comunque mia, cioè del Grode e di Massimiliano Archimede che ti rilancio, avanti Massimiliano, per Daniele, radio di cartone, direzione Ale Guarro. Guarda, l'ho intravisto nel segnale, anche perché ho una trasmissione, una spuria di qualcheduno che mi rimanda un po' di musica sotto fondo, adesso non so se sia colpa di qualche ripetitore casalingo o cosa sia, che se poi mi sposto da qua non siete più, torno tutto a posto. E perciò oggi c'ho un po' il segnale altino di questa roba qua, che poi me lo fa anche con altri, io pensavo fosse la mia radio, invece attacco anche, ho fatto una prova col Mac 5 ugualmente, lo sento, perciò non penso che sia problema di radio, ma quanto qualcuno che ha il trasmettitore è un po' sbrindellato. Ma è possibile. Devo chiedere scusa, 5 minuti perché sto dissaldando un pezzo da un circuito. 2 secondi di bianco per me. Ehi, è tranquillo, non c'è problema. E poi quando rientrano, quando rientrano, ci fanno sapere qui di là come è andata, ci faranno un riassunto. E di sabato non sappiamo ancora niente, no? So, ieri ci stavo parlando, ma ho detto che ancora non gli era ritornata la ricevuta della raccomandata. Prossimo mese sabato è già nominativo e tutto. Vuol dire che saremo in tre a spostarci in HF a parlare. Tutti che partiamo di nuovo, Massimiliano, ma qualcuno è passato. Ma c'era anche Roberto Quadrato, c'era. Di Roberto, Fabrizio, tutti gli altri parti. Anche la sezione di quarto questa volta ha preso colpi e sono contentissimo. Se lo posso immaginare il morale di Roberto, che è l'ennesima volta che ci prova. Mi dispiace, guarda, mi dispiace veramente tanto. E vabbè, io spero che abbiano il vigore magari di riprovarci e di riuscirci, ecco. Ma secondo me si dovrebbe ritornare come si faceva un tempo, che le varie sezioni, diciamo, cittadine, realizzavano specie di corsi per chi voleva diventare radioamatore e chi i vecchi radioamatori mettevano di conseguenza la loro esperienza e le loro conoscenze a servizio di chi voleva diventare radioamatore, che sicuramente aiuta tantissimo alla preparazione, ecco. Vabbè, solite cose che poi non sto a raccontare qua perché le sappiamo come avvengono. Devo essere sincero, io la volta che avevo fatto l'esame ero già socio della sezione di Sassari. Oh, vabbè, che a prescindere l'ho passato per le mie conoscenze in materia tecnica. Però secondo me, brutto dirlo, ma secondo me un po' guardano il fatto se uno o meno è iscritto o meno, o da una parte o dall'altra. Ci puoi contare, ci puoi contare. Io la SWL è la sezione di Porto Torrese e ogni venerdì il povero OMH ci faceva il corso e allora c'erano quello, c'era di tutto. Quindi sono andato, a parte le normative le conoscevo a memoria, ma sono andato con una preparazione abbastanza alta, anche se volendo non ci potevo andare perché ero già esonerato, anche da W0 come te, però sono andato e ho dato l'esame. È stato un grande orgoglio perché sono passato alla prima, proprio il primo esame, senza nessun problema. Mentre poi per la FICW sono stato esonerato assieme a altri 3 o 4, mi pare, di Cagliari, che avevano lo stesso titolo mio. Io non voglio incriminare niente a nessuno, però, Massimiliano, quando tu dai un esame a scuola, ti bocciano, vuol dire che i professori sanno che tu non sei idoneo, punto e basta. C'è poco a discutere, c'è poco a recriminare, c'è poco a dare colpe, ma quella, ma quell'altro, domande così, domande qua. Lì ci sono professionisti, e tu lo sai quanto me, ci sono professionisti, ma professionisti con le contropelle, e quindi se ritengono che tu non sei idoneo vuol dire una motivazione c'è, perché altrimenti ci sarebbero stati tanti di quei ricorsi che non viene bene a dirlo. Quindi mi dispiace per tutti, però io la penso così e nessuno mi muove dal mio pensiero. Se uno va per fare un esame pensando che sia chissà che cosa un gioco da ragazzi, non è così. Qua si parla di elettronica, non si parla di noccioline e cingombe. Non è che uno, perché sa aprire una radio e togliere un transistor, la resistenza e sostituirla, può diventare radioamatore. Ci sono tantissime cose da imparare, perché io che sono radioamatore, Massimiliano che è radioamatore, abbiamo ancora tante cose da imparare. E quindi, a prescindere dalla professionalità che può avere Massimiliano rispetto alla mia, perché lui lo fa per professione, io invece lo faccio per hobby, quindi ho il mio lavoro che mi dà a mangiare, mentre il suo è proprio un mestiere e perciò sicuramente è una preparazione superiore. Ma a prescindere da quello, su una radio vuol dire conoscere veramente tutti i parametri, tutte le cose tecniche, immaginarie che ci possono essere un vice trasmettitore e soprattutto saperlo costruire, saperlo fare a pezzi e saperlo rimontare, che non è cosa a poco. Cambiano la resistenza, cambiano il transistor, siamo in fascia protetta, quindi non si può dire, ma lo potrei fare con l'uccello, quindi. Vabbè, io vi saluto, ci rientro e niente, rimango sempre alla mia posizione, Massimiliano. Se uno viene bocciato vuol dire che non mi sa, punto e basta. Ah beh, certo, c'è, se non ho passato l'esame perché c'è una carenza, ecco. E molte volte magari si pensa o si prende magari troppo alla leggera la situazione, però è come hai detto tu, è come un esame scolastico, è come quando uno anche studia per la patente, a prescindere. Se uno non conosce le normative, i cartelli o i comportamenti, non può essere reso idoneo alla guida, come tutte le altre cose, anche nel mondo del lavoro, che se uno vuole passare di grado gli chiedono di studiare perché deve sostenere una sorta di esame per essere idoneo a determinate cose. Tu stesso, io mi ricordo tempo addietro, avevi studiato, ripreso un po' di chimica perché dovevi passare di grado, avevi studiato, se no altrimenti non si fa da qui a lì. Dopo c'erano 10 anni già in servizio, quindi per poter passare di livello e avere una responsabilità mi sono dovuto mettere a riaprire i libri per fare il corso che c'era di aggiornamento che abbiamo fatto tutti assieme ai miei colleghi, lo ricordi, in via Pascoli alla Confcommercio. Dopodiché a Cagliari abbiamo fatto un esame vero e proprio, con commissione, con tutti i dirigenti, con quelli che erano i tuoi superiori e che sono ancora. Quindi periti chimici, biologi, cosa che io mai visto e mai conosciuto, e oggi a fianco a me ho dei colleghi che sono biologi e periti chimici che scambiamo idee, scambiamo dati, scambiamo fatti, solo perché hai acquisito una determinata preparazione che ti permette di poter affrontare certi discorsi. Diversamente non potevi neanche metterti a fianco, nonostante il mio ruolo era completamente diverso, perché io facevo parte dell'ufficio tecnico, quindi delle manutenzioni e costruzioni, mentre oggi sono in conduzione, quindi vuol dire che qualcosa è grosso, fare una minima preparazione in quello che è anche la parte chimica. E così io la penso così, non è che devo dire Tizio Caio Semproni sono dei tonti, no, non mi permetterei mai, però se a Cagliari non si passa e passano quelli che devono passare, qua non si parla né di corsi né di niente, si parla di preparazione, che vuol dire che la preparazione c'è ma non è sufficiente per poter affrontare l'esame, punto e basta, tutto qua. Non è una passeggiata, lo sai come me, abbiamo fatto mi pare nello stesso periodo noi, quindi non è una passeggiata, nel senso che, come diceva Antonio, è una passeggiata perché devi fare 400 km, ma non è una passeggiata. Bisogna studiare, studiare, studiare e studiare. Sapere dalla A alla Z, non dalla A alla C, capito? Perché dalla A alla C è troppo facile. Dalla A alla Z, ai superiori anche. Diversamente ci si rimane così. No, per Salvatore ho chiamato io proprio ieri perché ho chiesto nulla vostra nuovamente, sai, e chiedo anche tu di nuovo, te l'ho chiesto da qua a via Pascoli, adesso lo sto chiedendo nuovamente a via Pascoli, a qua mi ha fatto l'ingegnere, mi ha detto ma voglio vedere quando si ferma, anzi mi fa un po', ne sto comprando un'altra ricetta, quindi fra un po' facciamo anche un altro nulla vostra, e ho chiesto e mi ha detto no, non c'è nessun problema, come terminano gli esami prendiamo in mano le pratiche degli esoneri e mandiamo direttamente già il nominativo con la licenza provvisoria e poi quella definitiva dopo qualche giorno, non c'è problema. No, io devo richiedere anch'io, ho chiamato ieri a Nando e metto di sentire giù a Cagliari, perché io mi ricordo la volta scorsa quando ho fatto da via Bucari in via Giovanni Pascoli, avevo scritto in un foglio il fatto che l'avevo cambiato da via a via, era andato all'ufficio qua di Cagliari, loro l'avevano protocollato, mi avevano timbrato una coppia col protocollo e firmata da loro, e l'avevo legata alla documentazione che ho a casa, e l'altro l'avevano spedita giù. E basta, poi vabbè c'era stato il cambio da speciale a ordinaria e lì poi nella licenza avevano fatto tutto, ma siccome voglio richiedere il tesserino, magari io con quell'occasione lì rinnovo tutto qua, così mi rinnovo anche la licenza generale. Tanto, vabbè, mi scade nel 2017, però viene rinnovata anche quella lì, così c'è di nuovo anche un indirizzo e mi faccio il tesserino che è meglio, che io ho ancora quello vecchio figurati, quello in cartoncino della licenza speciale. Io Massimiliano, io ho la vecchia licenza, la vecchia patente, però in allegato c'ho il nulla osta che mi hanno mandato loro col nuovo nominativo, io se è vero, va legato alla vecchia patente, capito, la vecchia licenza, non cambia niente. Anche la mia scala è del 2017, quindi prima non te la possono fare, posso richiedere nulla volta di cambio di domicilio e basta. E l'ho richiesto nuovamente da via Pascoli, a via La Mappa, perché prima l'ho fatto da via La Mappa a via Pascoli, ce l'ho sempre legato alla licenza, quello va legato alla licenza. In caso di controllo devi far vedere quella documentazione. Cagliari, ma manco persona, chiamo l'autore Sagiago, glielo dico, le faccio un fax, che mi faccia un fax, lo faccio autenticare qua all'ufficio provinciale e allego quello, non ci vado a Cagliari. E quando vado? Il pomeriggio. Se potrebbe andare il pomeriggio se decidiamo, perché sono aperti, mi pare, il mercoledì e il venerdì loro. Dalle 15 alle 17, ma non ce la facciamo neanche Massimiliano, dobbiamo partire prima, dobbiamo partire all'una, pranzare lì e poi andare in ufficio e rientrarci. Ma se lo fanno io mica ce l'ho andata. No, ma se chiedi il tesserino, cioè fare il cambio con il tesserino, lo puoi fare tutto via posta, no? Non te ne frega niente. Ti mandi tomata la documentazione che ti richiedo, con le foto autenticate, certificate, balle varie, e poi loro ti rimandano via posta poi il tesserino a casa. L'ha fatto anche Antonio, il bio, l'aveva fatto a suo tempo. Ma fai così, non c'è bisogno di scendere a Cagliari. Sì, ma cosa serve quello per tenerlo in tasca? No, me l'ha tutti tenuto. No, io adesso, domani che ci sono anche di pomeriggio, come arrivo a casa la chiamo l'autore Sagiago, dico se fa cortesia di mandarmi nulla osta corretto, perché loro hanno quello via Pascoli, il cambio di stazione praticamente si chiama così, vero e proprio in normativa il cambio di stazione, chiedo il cambio di stazione e mi faccio mandare nulla osta con la stazione ubicata in via Ugo La Malfa, capito, e basta. Vabbè, ma ci vediamo, dai, che alle 3 devo essere al lavoro, ci rientro oggi, ci sentiamo nuovamente, mi dispiace per chi è tornato a bocca asciutta da Cagliari, ma credetemi che io la penso così. Se è un professore Boccia vuol dire che non sei idoneo. Tutto qua. Pochi fatti, poche parole per conto mio. Voi, tutto il resto è noia. Ciao a tutti, ci sentiamo, Massimiliano, ci aggiorniamo stasera. Ciao, se lo siete salato le diglielo che ho chiamato io ieri per me, e ho chiesto anche per lui. Perché praticamente con la sessione terminata oggi, io penso che domani iniziano a prendere le pratiche degli esonidi e quindi mandino già la documentazione che serve, capito? Lo sento, te lo dico. No, ma il coso del tesserino, lo sai qual è il vantaggio? Che viene eliminata tutto l'incartamento dalla licenza generale, non esiste più, e sta tutto dentro il tesserino, tutti i documenti, quando ti fermano non devi più presentare patente, licenza, balle varie, devi solamente il tesserino, e quella è valida anche come licenza generale, capito? Allora meglio, una volta mi hanno fermato, i carabinieri ci avevano la KF, no? Io ci avevo la, addirittura c'avevo la coppia autenticata della patente della licenza, autenticata, me l'ho fatta autenticare al prefetto, quindi. E qui non mi hanno detto niente, però c'è di tenere sempre queste cartacce qui e là. Ho capito, ho capito. E allora domani quando chiamo la dottoressa Giacomo glielo dico, secondo quello che vuole lo mando tutto e mi faccio mandare quella. Va bene, ci aggiorniamo stasera Massimiliano. Ci sentiamo stasera, venite, facciamo qualche passaggio in 40 metri. Ciao. Ehi, ci sentiamo. Ciao Claudio. Ciao, ciao. Ciao Cla, ciao. Ciao Antonio, ci sentiamo stasera, ciao. C'ho un rientro, se no mi viene la biocco e non vado mai a lavorare. Ciao. È rientrato, ciao Claudio, ci sentiamo stasera. Ehi, ciao Cla, ci sentiamo stasera, non c'è problema. Buonasera Antonio, boh, chi c'è di altri, anche Massimiliano? Ehi, ciao Ale, rimango un attimino in ascolto però, perché sennò non concludo niente qua. Sono in ascolto che sto ultimando qua un programmino al computer. Sono in ascolto, parlate pure. Beh Ale, nulla? E nulla? Sì, ci mandiamo due chat adesso. Poi non lo so se vediamo al finale di questo lineare, parlo di lineare, non dell'alimentatore, ma se voglio cambiare questo diodo, vediamo se accende e lo provo e poi vediamo l'altro. Qual è lo stesso diodo che è cambiato nell'altro? Esatto, sì, quello che infatti sta facendo è tipo l'alimentazione al letto e anche al resto. Allora, la roba. Mi interessa di più l'altra cosa, eh. Vabbè, una cosa per volta. Ma se faccio questo, poi ti faccio anche l'altra. Guarda un po' cosa c'è di diffuso e vediamo da cambiare. Qui stavo guardando, ma questo lineare qua esce con 50, non con 100. È una cosa del genere, esce 50 senza fatto di più. Come quello di Giuseppe, anche Giuseppe sta più forte. L'unica cosa è abilitare l'apparecchio alla, cioè il lineare all'apparecchio, la risposta è quella, meno alimenti più esce. Apparecchio. Caragara, aspetta un attimo, ho finito di fare qualcosa. Ti devi mettere un buon apparecchio di macchina, in modo che te lo pilotti e sei tranquillo. Meno se. Questo Giuseppe come esce? Quando attacca sempre che abbia un linea d'attacco, cioè un attaccato d'attaccato di microfonico, la presa, non cambia niente. Forse la prestigia anche la radio addirittura.